Letture di Radio 24. Correva l'anno 1770 e a Vienna Wolfgang von Kempelen inventa un automa scacchista, una macchina che viene considerata il primo passo verso l'intelligenza artificiale. Vinse sulla scacchiera sfidando regine e imperatori, fino a che non incontrò un detective d'eccezione. Si chiama Il Turco e giocava a scacchi. La sua storia la rivela Tom Standage, editor dell'Economist, in una inchiesta in libreria a fine marzo per Nutrimenti. Venne inventato a Vienna nel 1770 da Wolfgang von Kempelen, funzionario d'élite alla corte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. L'automa era figlio di una leggenda, quella del mai visto leone meccanico di Leonardo e dei primi tentativi reali. Si muoveva in una cattedra lunga 1,20 m, profonda 75 cm, alta 90, e poggiava su 4 rotelle di ottone. Giocatore formidabile, batté tutti alle prime sfide. Poi, per anni, finì in soffitta, finché l'imperatore Giuseppe II non decise di riesumarlo per ricevere a Vienna il Granduca Paolo di Russia, figlio di Caterina la Grande. Un successone, sull'onda del quale il turco va in tour a Parigi e Londra. Diventa un fenomeno mediatico, tiene banco a suon di polemiche. È vero? È un trucco? C'è un nano nascosto all'interno? Ma intanto re, imperatori, aristocratici, fanno la fila per vedere l'icona della recente rivoluzione industriale. Il suo inventore muore nel marzo del 1804. Il figlio lo vende a Johann Melzel, che aveva lanciato le prime protesi artificiali per i soldati feriti dall'esercito napoleonico. Con lui, nel 1809, il turco gioca a scacchi con Napoleone Bonaparte. L'eco della prestigiosa sfida moltiplica la fama dell'automa. Gioca con Charles Babbage, il precursore dell'informatica, e a lui offre spunti per studi futuri. Sbarca negli Stati Uniti, dove nel 1835 Edgar Allan Poe ne fa l'oggetto di una personale indagine e di un'inchiesta pubblicata sul Messenger. Poe, anticipando lo stile che con I delitti della Rue Morgue gli farà inventare il genere poliziesco, svela la presenza di un manovratore all'interno, che però non sminuisce la sofisticata tecnologia del manufatto. Il turco perirà, per così dire, nel 1854 in un incendio al Chinese Museum di Filadelfia, dove giaceva abbandonato. Chi tentò di salvarlo lo sentì gridare tra le fiamme: scacco matto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'automa scacchista che sfidò Napoleone di Piero Melati, da Il Venerdì di Repubblica dell'11 marzo. Letture di Radio 24. Un tempo i curriculum vitae si gonfiavano. Oggi, in tempo di crisi, si sgonfiano. I candidati risultano spesso troppo preparati per i posti offerti e le aziende temono dunque che vadano via presto. Una volta qualcuno faceva il furbo scrivendo di parlare perfettamente tre lingue e avere due master. Oggi succede l'esatto contrario, dequalificandosi. In tempo di crisi anche il curriculum fa economia. Colpa delle poche offerte e delle troppe domande, gli spagnoli hanno invertito la tendenza, furba, a gonfiare preparazione e competenze per un posto di lavoro. Se una volta le lingue parlate perfettamente erano almeno tre, i master mai meno di due, adesso vince la linea della sobrietà, anzi, dell'astinenza. Perché per scongiurare la diffidenza di potenziali datori di lavoro restii ad assumere candidati troppo bravi, i laureati disoccupati di Zapatero stanno giocando al ribasso. Meno so, meno costo, più possibilità ho di essere scelto. El País scrive che in Spagna negli ultimi tre anni è triplicato il numero delle persone qualificate disoccupate. 2 su 5 sono senza impiego da un anno. Risultato, l'agenzia di lavoro interinale Adecco ha calcolato che su 900.000 disoccupati, il 10%, oltre ad avere un curriculum tradizionale, ne ha un altro più leggero. Il piano B scommette sull'impreparazione. È una conseguenza della crisi che non risparmia gli italiani. La cosa che notiamo noi sono i curricula differenziati a seconda del tipo di colloquio. Interviene Anna Bogatto, responsabile della gestione candidati di Adecco Italia. Falsare al ribasso o al rialzo inficia il rapporto di fiducia, spiega Giovanna Brambilla, amministratore delegato di Value Search. E Riccardo Romano, direttore risorse umane in Danone, racconta. noi selezioniamo anche gli stagisti con gli stessi criteri delle altre figure professionali e i curricula eccellenti sono preferibili. In fondo, bisogna accontentarsi all'inizio, ma la carriera è ormai più rapida. Non è un caso che l'età media dei nostri dirigenti sia di 33 e 34 anni. Se Antonio Lombardi, amministratore delegato di ALI, Missione Lavoro, osserva che il problema non si pone sulle offerte di fascia bassa regolarmente disertate dai dottori italiani, Beatrice Bauer, docente di comportamento organizzativo alla Bocconi di Milano, incoraggia a non rifiutare nessuna offerta. È psicologicamente difficile sminuirsi da soli, però in questo momento è fondamentale essere flessibili, curiosi, disposti a muoversi. Il familismo tutto italiano scoraggia i compromessi. I giovani sono poco propensi a lavorare per un progetto. Invece bisogna essere leggeri, accettare un livello inferiore alla propria formazione e aspettare l'occasione per rilanciarsi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Curriculum sgonfi per trovare lavoro di Elvira Serra dal Corriere della Sera di mercoledì 9 marzo. L'allarme nella centrale atomica di Fukushima in Giappone riaprì il dibattito sull'opportunità dello sfruttamento del nucleare non solo in Italia, dove un referendum popolare aveva per anni vietato la costruzione di centrali di questo tipo, ma anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, dove invece sono già in attività più di 200 reattori. Negli Stati Uniti il nucleare ormai fornisce il 20% dell'energia nazionale. Il presidente Obama ha garantito lo stanziamento di 36 miliardi di dollari in prestiti per costruire nuove centrali e la Commissione di regolamentazione per l'energia nucleare ha avviato l'esame di altri 20 contratti di licenza. Dopo l'esplosione nella centrale di Fukushima in Giappone, però, all'interno dei democratici si è assistito ad una marcia indietro. Edward J. Markey, presidente della Commissione Energia e Risorse della Camera, ha chiesto all'amministrazione una moratoria nella costruzione di nuove centrali nelle aree a rischio sismico e maggiori garanzie di sicurezza in quelle già realizzate, e poi maggiori controlli sulle strutture e sul loro impatto in caso di incidente. Negli Stati Uniti sono 23 le centrali con lo stesso tipo di impianto di Fukushima. Persino i repubblicani non hanno negato i loro timori. Joe Barton, deputato eletto in Texas e convinto nuclearista, ha ammesso che anche chi è favorevole al nucleare intende capire fino in fondo che cosa non ha funzionato e evitare che l'errore si ripeta. In Germania, dove le centrali in funzione sono 17, il cancelliere Angela Merkel ha convocato un consiglio dei ministri d'emergenza. I suoi timori sono soprattutto politici. Questo mese si vota in 3 stati dove il governo rischia di vedere l'opposizione radunarsi intorno al no al nucleare, una posizione molto forte, come il cancelliere ben sa. Lo scorso anno le è costata molto in termini di consenso la decisione di rinnovare di 12 anni la durata degli impianti. Il governo francese non ha nascosto preoccupazione per le sue 58 centrali. L'ambientalista Daniel Cohn-Bendit ha lanciato l'idea di un referendum per chiedere l'uscita dal nucleare, ma l'esecutivo non accenna ad alcuna marcia indietro. Il premier François Fillon, alla fine, ha promesso che la Francia sarà attenta a trarre gli insegnamenti utili dagli eventi giapponesi. Più incerta la situazione in Gran Bretagna, dove ci sono 19 reattori in funzione e in cantiere un piano per costruirne altri 10. A livello ufficiale, il sottosegretario all'energia, Chris Huhne, ha soltanto rassicurato tutti. Il governo sta monitorando la situazione, ma molti temono che ora il progetto sia più difficile da realizzare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Flavia Amabile dal titolo Europa e America, cammino a ostacoli per le nuove centrali, pubblicato dalla Stampa del 14 marzo.